Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giulio Caperdoni per la penultima trasmissione dell'intera stagione. Ebbene sì, siamo proprio agli sgoccioli di Eclettica, ancora oggi, ancora domani, e poi si chiude, si sospende per qualche settimana e poi si riprenderà. Non sarà lunga l'attesa con la 14ª stagione, ma nel frattempo sempre fra le 19 e le 20 troverete la musica di Eclettica a tenervi compagnia. Non ci sarà la trasmissione, ma la musica sì. Dichiarazione resa in data 25/1/1954 al commissario di PS Pasquale Cinquegrana, da Pagano Salvatore di Ignoto, sospettato del furto di un costoso apparecchio televisivo di marca americana dalla base militare delle forze alleate di Agnano, Napoli. D'accordo, ho capito. Voi dite che ci starebbe una persona che mi vide dalle parti della base. Agnano, dico. La base degli alleati ad Agnano. Ma che significa? Può essersi pure sbagliato. Voi lo sapete come succede quando fa buio, che credete di riconoscere un amico e invece è qualcun altro che non c'entra. Ecco, così deve essere andata. Cosa credete? C'è più di una persona che vi può dire che stavo alla festa. Vi ho già parlato l'altra volta della festa, quella della Befana. All'orfanotrofio Santa Teresa. Certo, a distribuire i regali alle creature, come no? Lo potete chiedere a Suor Giuliana se volete, non era mica buio là. Quella mi ha visto per bene in faccia, insomma, abbiamo pure parlato. E c'era anche Suor Maddalena, pure a lei lo potete domandare. Non penserete che le due suore vi vogliono mentire. Quelle sono le spose di Cristo. Voi le conoscete, le suore. Preghiere e opere buone. Non sanno nemmeno cos'è una bugia. Cioè, intendetemi, lo sanno. Però pensano che se uno le dice, la Madonna piange. Davvero, così ci dicevano. Lo sapete cosa succede se dite le bugie? A me sono loro che m'hanno cresciuto, le suore, dico. Suor Giuliana e Suor Maddalena insieme. Potete controllare. Fino all'età di 13 anni ho abitato presso la casa del fanciullo di Santa Teresa, perché, insomma, mia madre aveva denaro appena per campare, poveretta, e con il mestiere che faceva, non so se mi spiego, una creatura era un bel peso. Mio padre, invece, non aggiungo altro. Fratelli, sorelle, magari ce n'ho pure parecchi, ma nessuno mi ha mai avvertito. E già che ci siete, quando andate dalle suore, chiedetelo a loro se sono un delinquente, come dite voi. Quelle non vi dicono mica le bugie, lo sapete. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Thank you. Dear Bort Sendiev, your wife Oxna was walking your retarded Vilo in the woods when a bear attacked and violated and break her. She is now dead. Might you say my wife is dead? This is what it's... Yes, sir. I'm sorry to inform you, but that's what the telegram says. High five! Hanging on to my mama's every word, gonna sing them out loud and conquer the world. All them faces on the pictures up there makes me remember when my table was bare. Living at my mama's house, taking food from my family's mouth before the money came. I was singing R&B back in 62 before you were born and your mama too. I knew David Ruff when he was sober, sleeping on my floor before we crossed over. All my friends on the Grammy shows, I was stuck in Detroit trying to open doors. Record deals kept falling apart, one with Atlantic nearly broke my heart. Before the money came, I got a lot to say. So proud I was built this way. Some folks didn't see my worth, didn't know where I fit in. 40 years I kept on singing before the money started rolling in. If I got me a gig for 50 bucks, now I got all these big decisions to make. Never thought success would be hard to take. Shoes on my feet, more in the closet. Silk on my skin, more if I wanted. All these years I kept my style. I wouldn't cross over, so it took me a while before the money came. Quest'oggi abbiamo aperto Eclettica con un pezzo che ben conoscete, se perlomeno ascoltate Eclettica da qualche settimana, Early Mart, il nome della band Happy Alone. invece la canzone che vi siete ascoltati in apertura. Poi musica che sembrava provenire dal passato, infatti lei è ben oltre i 60 anni, ha cominciato la carriera nel 1962 quando ne aveva 16. Betty LaVette appena ascoltata con Before the Money Came, che non è nient'altro che una biografia in musica, infatti parla di quando cantava R&B nel 62, prima che tu fossi nato, e anche tua mamma, così dice nella canzone, o parla del contratto che firmò con l'Atlantic, una vera e propria biografia per un'artista che è ritornata con una grande voce da 3 anni a questa parte a cantare. The Scene of the Crime è il titolo del disco, uscito il 25 di settembre per la Anti, o Anti, in pratica per la Epitaph, che quindi continua in questa riscoperta dei grandi artisti del passato, ma non con antologie, facendoli incidere dei nuovi dischi. Si prosegue invece con una nuova produzione per la Anticon, lui proviene dal New Hampshire, si fa conoscere con lo pseudonimo di Telephone Jim Jesus, ma a tutti gli effetti all'anagrafe è George Chadwick. Un nuovo album, il suo secondo, Anywhere Out of the Everything, dal quale ho estratto Mouth of Fingers. Springs, California, 30 gennaio, pomeriggio. Sul sofà Chippendale, proprio di fronte a Carey, c'era Sir Lewis Chester Kennington, alto funzionario dell'MI6, giunto da Londra pochi giorni prima. Di fianco a lui, Henry Raymond, soprintendente sul suolo americano della medesima struttura di intelligence. Rigidi, nei loro perfetti abiti grigi. lana pettinata, grey pinstripe, due bottoni, panciotto, probabilmente Anderson & Shepard, e le camicie avevano l'inconfondibile taglio Turnbull & Dusser di Jermyn Street. Ai piedi entrambi calzavano Oxford nere, ma l'ensemble era indossato con poca personalità, tipico degli inglesi, che al bel aspetto preferiscono la perfetta mimetizzazione tra le pareti degli uffici. Sir Lewis, alto circa 6 piedi sulla sessantina, i capelli bianchi e pettinati all'indietro, baffetti neri, ben curati. Raymond era forse di 10 anni più giovane e più basso di 3-4 pollici, capelli rossi e sottili, scriminatura destra. Entrambi avevano accenti affettati da rampolli dei ceti superiori e occhi chiarissimi, di quelli che nel bianco e nero sembrano slavati e insinceri. Carrie aveva occhi scuri, potevano forare lo schermo e comunicare qualsiasi emozione. L'agente FBI, biondo, di media corporatura, 30 anni e qualcosa, si era presentato come Bill Brown ed era rimasto in piedi di fianco al caminetto in marmo. Giacca sportiva blu sbottonata, camicia magenta, cravatta con nodo storto, occhiali da sole, montatura troppo pesante per i suoi lineamenti. Aveva detto solo due parole, ma Carrie aveva riconosciuto il twang della cadenza texana, lo stesso del suo amico Howard Hughes. Versando un filo di latte nella tazza del tè, Sir Lewis disse: «Mr. Leach, vi sarete certo domandato cosa desideri da voi il governo di Sua Maestà?» Carrie, cittadino americano dal 1942, annuì senza dire nulla. Negli ultimi giorni era stato troppo giù di corda per essere curioso. Nessuno lo aveva più chiamato Mr. Leach da più di 20 anni. Questo era ancora 54 di Wu Ming. per me il brano che ci siamo appena ascoltati è come un palliativo, perché qui sentiamo Beirut com'era in passato in questa collaborazione con Alaska in Winter. Però sono sicuro, anzi ho avuto già qualche indicazione in questa direzione, che il nuovo disco di Beirut in uscita ad ottobre sarà invece completamente diverso, e quindi sono in attesa delle novità da parte sua, da parte di Zach Condon, altrimenti conosciuto come Beirut. Prima parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che sta per chiudersi con un'opera che arriva dal Canada ed è assolutamente gratuita su internet per chiunque che la voglia scaricare, un EP di 5 canzoni dal vivo da parte dei Great Lake Swimmers, registrato in una chiesa di Toronto, la Church of the Redeemer, infatti si chiama Live from the Church of the Redeemer EP, da cui vado ad estrarre Moving Pictures Silent Films, traccia che originariamente era sul loro disco del 2005 per la Misera Records. What have you silent films, moving pictures, silent films. Look, there is a woman in a car. Can we follow her and maybe make a sexy time with her? No. Why not? Because a woman has a right to choose who she has sex with. What? How about that? Isn't that amazing? You joke? There must be consent. How about that? That's good, huh? It's not good for me.